che chiami e vinto e detrui,

mi difenderò. Sarò un dannato, lo so, lo so. Ma non mi avrei urlato, solo la mia è stata e l'altro il mio nome da quando venni al mondo. Ma finché mi sei mio padre, io non sapevo. Or son sei mesi che mio padre morì. Sola ricchezza mia per la madre e per i fratelli all'animale. L'eredità paterna. Una masnada di banditi da strada. L'accettai. Era quello il mio destino. Ma un giorno ho incontrato. Thank you. sceriffo a caccia del tuo Johnson d'inferno. Non seguito la traccia, deve esser qui dov'è. Oh, avete seccato con questo vostro rabis. Ne son certo, non può esser fuggito, non può esser che qua. E cercatelo dunque, rovistate, dove mi pare, e poi di volte vede che c'è. E non seguitate a cercarlo. E sarà, l'avrò sbagliato. Ma dimmi che non l'ho. Woo-hoo!

voi quest'uomo? Perché sia dato alla comunità? Faccia essa giustizia. Buona fortuna, o mio bel gentiluomo. E così, Mr. Johnson, come va? Scusate se t'abbiamo disturbato. Ora che facciate presto! Quanto a questo, bastano a sbrigarci pochi minuti. È quello che desidero! E che desideran tutti, vero? Bandallato, rubato e ucciso, no! La squadra di Monterrey bandito fu massacrata dalle facce gialle di quelle tue canaglie messicane. Pugnalasti alle spalle il povero Tommy, no! Non è vero! Sì! Non mi dice dal valle ucciso un postiglione celesti, no! Assassino vai! Ma la polpa, quella notte venisti per rubare. Con gli occhi sorriso di vigna riservati. Che lei ci ha rubato. Ladro, ladro! Sotto le tira da casse. Armiate lo scherno della morte, non mi metto pensiero, e ben voi tutti lo sapete, visto siete un braccio, mi scozzo di mia mano. D'altro voglio parlarvi. Andiamo. Donerai come Thank you. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。